fight just like we used to do. Rasta metropolitani che pensano solo alle puttane e alla droga. Questa è la realtà che ci ingloba, una realtà sotterranea e strana che vuole coche e macchinoni. E fuori restano i buoni, alcol, eroina, ecstasy, ketamina. Ognuno ha il suo male, sceglie la sua medicina. La merce in vetrina con cima come la peste. È un verme che si insinua nelle nostre teste. La mia gente ci casca in tasca, la sua busta con la pasta. Poi guarda gli sbirri come gangsta, contratti interinali, palazzi popolari. Che quando tu ci passi pensi di essere un safari mali. Che fanno cani animali pronti alla lotta. Quindi alza le mani o prendi piede in questa botta. Industriali, politici con le mani nella torta. Questo mi avviso, la mia gente non è morta. Cresciuto dentro ad una culla fatta di cemento, prendevo carezze dolci come un pugno sotto il mento. La famiglia ti protegge se la pecora è nel gregge. Fuori tra l'asfalto poi la strada detta legge. Sbirri fermi all'angolo, i pusher che attendono, barboni in terra dormono e drogati che si dannano. È la strada che spaventa, la strada che ti cresce. La strada è una compagna fin da quando ci si nasce. Puoi trovarci un po' d'aiuto e puoi trovarci conforto. Ci trovi anche le lacrime di chi si piange un morto. È una moglie che ti dà, una puttana che ti toglie. Spazza i miei amici come il vento con le foglie. Non c'è spazio per i deboli, è il più forte che rimane. Crimine nell'urbane, selezione naturale. Giungle metropolitane dove cane mangia cane. Vive o forse sopravvivi tutto quello che rimane.